tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mula de Parenzo l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva. Ora che il baccalà, perché non mami più? Ma quando spunta l'erba, la memorosa e vecchia, la tengo de riserva. E quando spunta l'erba, la mando a pascolare.